Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buona domenica. Grazie, buona domenica da Stefano Zenni. Grazie per essere anche così numerosi in un momento formidabile, una giornata eccezionale oggi per l'auditorium. Sapete che ci sono ben tre interessantissime lezioni di musica in questo momento. C'è Giorgio Pestelli che parla della terza di Brahms, ma io avrei voluto essere in un'altra sala a sentire David Peteschi che parlava di musica e linguaggio all'interno del Festival di Scienza. Mi tocca essere qui, e vabbè, visto che siete tanti, va bene lo stesso. Se qualcuno vuole fare lezione al posto mio mentre io vado a sentire Peteschi, va bene. La lezione di oggi rientra nel ciclo Oltre la musica, cioè una serie di riflessioni che vanno oltre l'ascolto musicale e riguardano fenomeni storici più ampi. E oggi parleremo di una, cioè ci poniamo una domanda: perché il jazz è nato a New Orleans e non a New York? E potrei aggiungere anche, avrei potuto scegliere un altro titolo, perché il blues è nato nel sud degli Stati Uniti e non a Rio de Janeiro, per esempio? Cioè il tipo di, o a La Habana. Il tipo di domanda è la stessa. La ragione è molto complessa e credo che sia necessario, per dare una risposta a questa domanda apparentemente così semplice, immergersi nella ricchezza dei fenomeni storici. Il tentativo di questa lezione è quella di cercare di comprendere come certi fenomeni storici in realtà non sorgono dal nulla, non hanno un punto d'origine, perché qui ci poniamo il problema dell'inizio di qualcosa ed è sempre il tema dell'inizio è sempre un tema molto affascinante ma anche molto pericoloso da affrontare, perché spesso cerchiamo, soprattutto nella storia o più spesso nella politica o nell'ideologia, cerchiamo delle soluzioni semplici a queste domande. Quando è che ha avuto inizio una cosa? In che posto? In che giorno? A che ora? Chi è che ha dato origine? Cercando, come dire, una risposta puntuale, un punto, un momento, un luogo, quando invece scopriremo nella storia nulla mai veramente origine, ma tutto il risultato di processi. E cercheremo di comprendere questi processi partendo da un dato fondamentale, cioè che questi processi spesso implicano, vi chiedo scusa, implicano movimenti migratori. Le migrazioni sono connaturate alla specie umana come Homo sapiens, sono parte del nostro corredo genetico, il fatto di muoversi, come fa parte del nostro corredo genetico l'essere animali sociali, ad esempio. Uso questo linguaggio più scientifico semplicemente per adeguarmi al clima da Festival della Scienza che c'è in questi giorni qui all'auditorium, peraltro bellissimo. Ieri sera eravamo a sentire Noam Chomsky nella sala Petrassi e c'è Chomsky in sala? No, purtroppo. Vabbè. E dicevo, in realtà siamo una specie migrante, anche perché come specie migrante noi possiamo dare origine alla varietà culturale. La varietà delle culture, il cambiamento culturale è prodotto dalle migrazioni, cioè quando per ragioni forzose o libere le persone si spostano momentaneamente o definitivamente da un posto all'altro e incontrano altre persone con scambi, incontri, a volte scontri anche tragici di carattere culturale che danno origine al cambiamento culturale. Una delle più drammatiche forme di migrazione forzata che c'è stata nella storia è naturalmente la tratta degli schiavi interatlantica, diciamo la tratta atlantica, perché in realtà esiste una tratta degli schiavi anche che va da sud verso nord, magari ne parleremo in un futuro, in una lezione futura, di come la musica del Mediterraneo è stata influenzata da una tratta degli schiavi che ha interessato il Mediterraneo, ma noi qui oggi ci occupiamo della tratta degli schiavi che dall'Africa ha portato milioni di individui tra il XVI e il XIX secolo dall'Africa, partendo dalle coste dell'Africa, ma provenendo anche dalle parti molto più interne dell'Africa. Questa mappa ci mostra i luoghi di partenza degli schiavi, non necessariamente di provenienza, per essere portati al lavoro e alla morte. La morte spesso avveniva anche durante il ferocissimo Middle Passage, il passaggio attraverso l'Atlantico in condizioni disumane. Siamo alle soglie del giorno della memoria, ma ci vorrebbe un giorno della memoria anche per gli sventurati che venivano stipati a migliaia nelle stive come oggetti, nelle stive per settimane, nelle stive delle navi negriere, e portati a lavorare nelle campi di canna da zucchero, di tabacco, nelle miniere d'oro del Brasile e più tardi nei campi di cotone, allo scopo di consentire agli europei di mettere lo zucchero nel caffè, di bere il caffè o di, più tardi di indossare oggetti di cotone. Questo impatto, vedete già questa mappa che viene da un bellissimo Atlante della schiavitù, ci consente di capire quanto sia stato potente l'impatto di milioni di individui nel corso di circa 3 secoli provenendo dall'Africa verso appunto l'impatto sulla costa, sulla fascia atlantica di tutto il continente americano, da nord verso sud. Prima di vedere cosa succede sulla fascia atlantica, vediamo da dove vengono questi schiavi. Questi schiavi che venivano catturati da altri africani, non vorrei che aveste un'idea un po' semplicistica della schiavitù, non è che l'uomo bianco, l'europeo, metteva piede in Africa, catturava i neri e poi li portava, no. Gli europei acquistavano schiavi che venivano catturati da altri africani. Quindi esisteva anzitutto diciamo, una fase di cattura degli schiavi fatta da potentati, guerrieri, re africani che poi vendevano questi esseri umani sulle coste agli europei. Gli europei neanche ci mettevano piede praticamente o quasi in Africa. Quindi questo per dirvi che non c'è una storia qui, non stiamo raccontando una storia di africani buoni e vittime e di europei bianchi e cattivi. Qui stiamo parlando di sfruttatori e di sfruttati, a prescindere dal colore della pelle e dalla provenienza culturale. Inizialmente gli schiavi venivano soprattutto, come vedete, andando da sud, da nord verso sud, dal Senegal, quella zona Senegambia, quindi da un'area dell'Africa centro-occidentale. Ed è importante capire che questi schiavi, che noi chiamiamo africani, in realtà erano portatori di culture profondamente diverse. Parlare di musica africana, cultura africana, è, in un certo senso è anche sbagliato, perché all'interno dell'Africa ci sono migliaia di lingue, migliaia di culture differenti, alcune delle quali sono distanti per carattere linguistico e culturale quanto possono esserlo un portoghese e un finlandese, che non si capiscono neanche reciprocamente a livello linguistico. E quindi aggiungo una differenza che per quanto ci riguarda è anche musicale. Come si fa a ricostruire parte di queste differenze? Un buon modo che usano gli storici e anche i musicologi per cercare di capire le differenze culturali è ricorrere alle differenze linguistiche. Vi faccio vedere una mappa molto semplificata, proprio semplice, delle aree linguistiche africane, perché noi facciamo una specie di piccola assunzione, cioè noi presumiamo che laddove ci sono differenze linguistiche ci sono anche profonde differenze culturali e aggiungiamo nell'ottica di questa lezione anche differenze musicali. Quindi vedete che l'Africa ha, adesso non scendiamo troppo nel dettaglio, a noi interessa sia la parte quella nero-marrone, cioè delle lingue afroasiatiche che come vedete abbracciano soprattutto l'Africa oggi islamizzata e poi ci interessa la parte, quella più rosso-scura nell'Africa centro-occidentale e poi quella arancione che considereremo più avanti. Sono aree di lingua cosiddetta Niger-Congo, Niger-Congo A, Niger-Congo B, quella rossa è la A, quella arancione è la B. Poi vedete ci sono lingue Khoisan che sono quelle verde scuro, con una piccola enclave lì nell'Africa orientale, che in realtà è il punto da cui ha avuto origine la lingua Khoisan, e aggiungo io, ha avuto anche origine l'umanità, di dove c'è quel puntino verde al centro a destra, ma vedete che l'Africa è dominata soprattutto dalle lingue Niger-Congo, l'Africa tropicale e subtropicale. Gli schiavi all'inizio provenivano da una mescolanza di aree di lingua afroasiatica, anche molto all'interno, e di lingua Niger-Congo A. Ora, cerchiamo di capire come queste diverse aree linguistiche esprimessero particolari culture musicali, che poi sono state portate nelle Americhe. Per esempio, sia nelle aree di lingua afroasiatica che nelle aree di Niger-Congo A, c'è una ricca cultura dei cordofoni, cioè di strumenti a corda, di varia natura. Uno di questi, per esempio, di area Hausa, vedete Hausa è lì vicino alla area gialla al centro, nella zona afroasiatica, al centro dell'Africa islamizzata, siamo come nel nord della Nigeria, nelle aree Hausa, per esempio, c'è uno strumento che si chiama il garaia, che è un cordofono con una corda sola, sul quale si suonano delle frasi reiterate e ripetute, come per esempio questa. È incredibile, un pezzo di hard rock suonato, se ci pensate bene, oppure Peter Gunn, praticamente lo stesso riff, suonato da un cordofono africano. E io quando vi dico un pezzo di hard rock scherzo, ma non scherzo neanche, perché in realtà tutta la componente di tipo reiterativo, ripetitivo, a riff, cioè di piccole frasi ripetute, che ascoltate nella musica occidentale popolare, dal jazz al blues al rock alla musica da cinema, viene da qui. Viene dalle aree afroasiatiche e Niger-Congo A dell'Africa centro-occidentale. Quindi la prossima volta che ascoltate Smoke on the Water, pensate che sotto sotto c'è il garaia con questo tipo di riff. Questo è un aspetto importante, lo diciamo un po' scherzosamente, in realtà questo ci mostra già un primo dato, e cioè che la nostra cultura musicale popolare degli ultimi 100-150 anni è pervasa da un elemento africano. Quando voi sentite, accendete la televisione e ascoltate un jingle pubblicitario e trovate dei piccoli riff ripetuti, ricordatevi che quei riff non appartengono alla cultura musicale occidentale, ma sono il risultato della pervasività, del fatto che l'elemento dell'Africa, diciamo, centro-settentrionale, è entrato dentro la nostra cultura musicale, fin nel profondo, al punto che non ne riconosciamo più neanche le origini. Altri tipi di strumenti a corda sono cosiddetto xalam o halam, che è quello che vedete in mano a questo musicista in primo piano, che è considerato un po' l'antenato del banjo, che invece è uno strumento occidentale. Il banjo non è altro che un adattamento americano, statunitense per la precisione, della ham. La ham può avere più corde, il garaia ce n'ha una sola, ed è diffuso in tutta l'area, per esempio del Senegal, per fare un esempio. Vi faccio sentire un breve esempio di come suona uno halam. Thank you. Anche qui c'è un elemento ripetitivo, decisamente meno scarno del Garaia che abbiamo ascoltato prima, più fiorito, e qui si coglie un elemento arabeggiante in questa fioritura melodica nella parte acuta dello strumento, ma indubbiamente l'elemento ripetitivo è fondamentale, ma soprattutto è fondamentale, avete sentito, l'intreccio ritmico fra le parti, che è un tratto caratteristico di tutta l'Africa, per esempio Niger-Congo. Se paragoniamo questo esempio appena ascoltato con un banjo del Kentucky, capirete che da un punto di vista della tecnica, dell'intreccio delle parti basse con quelle acute, dell'incastro ritmico delle parti, siamo in una dimensione estremamente affine, se non quasi identica. Evidente che questo banjo, pur essendo del Kentucky, ha ben poco della musica da ballo occidentale, che so, anglosassone. Questo intreccio ritmico, anche questo fatto che non c'è una melodia, ma c'è un elemento ripetitivo che riconosciamo, costituito anche da ritmi che si incastrano delle varie corde, ci rimanda direttamente all'Africa. Nella foto che vedete c'è un musicista lì sulla sinistra che ha appoggiato alle cosce una cora, cioè un altro degli strumenti a corda tipici dell'area tra Senegal e Gambia e Mali anche, quindi dell'Africa che sta tra, diciamo, le culture afroasiatiche e quelle Niger-Congo. E io vorrei farvi ascoltare in particolare di questa famiglia di cosiddette arpe liuto. Ce ne sono di diversa grandezza, quantità di corde, dimensioni, estensione, eccetera. Vorrei farvi sentire un esempio di arpa mandinga che viene dal Gambia, una registrazione degli anni 50, veramente impressionante, perché, non sto a commentarla mentre l'ascoltiamo, è un frammento piuttosto breve, sentirete da dove viene il boogie-woogie. Perché ci sono due elementi fondamentali. Il primo, che emerge non immediatamente, lo sentirete più avanti, ve lo indicherò, è un basso, che è di nuovo un basso ripetitivo come quello della halam. È molto swingante, tra l'altro, e ha questo elemento ripetitivo di basso che poi ritroviamo nel rhythm and blues, nel rock, ovviamente nel blues, nel jazz e in tutti i generi che discendono da questo tipo di musica. Notate che stiamo parlando tutti di generi nordamericani. Non vi ho detto che i bassi del halam o dell'arpa liuto li troviamo per esempio nella musica cubana o in quella brasiliana, se non in maniera sporadica, e vedremo appunto perché il tema di questa conferenza. L'altro elemento fondamentale è che abbiamo un movimento delle corde superiori che oscilla fra due note, esattamente come nel boogie-woogie. Addirittura come nel boogie-woogie, a un certo punto l'esecutore si interrompe e fa dei break, intreccia delle melodie molto complesse e poi ricomincia con questo, di nuovo, elemento ripetitivo, ma in questo caso oscillante, mentre il basso suona il riff. Del basso? Questo arriva. Break. Thank you. break. Giusto un accenno. Come vedete, ci stiamo muovendo in un territorio che si avvicina molto al blues. Anzi, molti sostengono che alcuni dei tratti fondamentali del blues vengono proprio da queste aree, cioè dal Gambia, dal Senegal, dal Mali. A volte si fanno anche delle ipersemplificazioni. Per esempio, spiace che lo stesso Martin Scorsese, nella serie di documentari dedicati al blues, che forse conoscerete, nel documentario Dal Mississippi al Mali, lascia intendere che il blues sia nato nel Mali. Ecco, queste sono ipersemplificazioni che non funzionano. Però non c'è dubbio che tutti questi elementi poi negli Stati Uniti hanno dato origine al blues. O a un certo modo, avete sentito in particolare questo esempio, un certo modo di swingare, no? Questo relax rimbalzante che poi diventerà lo swing nelle musiche nordamericane. A proposito di elementi blues, vorrei ancora mostrarvi un ultimo aspetto. Il più impressionante è un aspetto melodico che ha rilevato il grande etnomusicologo Gerhard Kubik, che nei primi anni 60 si trovò a viaggiare col suo registratore bello pesante a mano in alcuni villaggi del nord del Camerun, in particolare in villaggi di etnia Tikar. Siamo in un'area culturale delle lingue Niger-Congo-A, e lui stesso ha raccontato questa storia, l'ha raccontata a me personalmente, ma l'ha raccontata anche nel libro L'Africa e il Blues, che è stato anche tradotto in italiano, dove trovate anche il CD con alcuni degli esempi musicali che stiamo ascoltando. E a un certo punto lui, entrando in questo villaggio, è un giovane tedesco appena laureato all'Università di Berlino in etnomusicologia, arriva e sente il canto di una ragazzina. Si avvicina e trova all'ingresso del villaggio una ragazzina che lui dice potrà aver avuto tra i 14 e i 16 anni, inginocchiata, che sta macinando il miglio. Lo sta macinando su una pietra concava, lunga, e ha un'altra pietra invece smussata e arrotondata che fa cadere, rimbalzare su questa base concava, macinare il miglio, la raccoglie di nuovo, la fa cadere, questa pietra rotola, si rialza e così va avanti così. Il punto è che questa ragazzina canta una melodia che adesso sentirete e fa rimbalzare la pietra ritmicamente in un modo che adesso coglierete. Kubik si avvicina, ascolta questa cosa fantastica, aziona subito il registratore, mentre registra, fa un rapido schizzo della posizione della ragazzina per documentare la posizione in cui si trova per suonare questa cosa, e poi ha pubblicato questa registrazione, che è questa. And the way I

con il sasso, facendolo cadere in contrattempo ritmicamente. Questo modo di vocalizzare, di tenere il tempo, di costruire le melodie discendenti, sono, l'avete sentito, incredibilmente blues. Se ci mettete la cultura del cordofono portata negli Stati Uniti, dove al posto di un'arpa mandinga ci mettete una chitarra, avete un altro esempio con lo stesso tipo di ritmo, registrato sempre da Kubik, di una cantante del sud degli Stati Uniti che canta il blues in questo modo. Impressionante, eh? Praticamente la stessa cosa. Questo tipo di vocalità, che avete capito si trova nel blues, è ricco di elementi islamici, anche di area afroasiatica. Per rendersene conto basta prendere un qualsiasi disco di Blind Lemon Jefferson, uno dei primi padri del blues, e sentire il canto del muezzin nella sua proprio nel modo in cui porge la voce, nel modo in cui emette il suono, con un suono di gola stentoreo e una grande ricchezza di melismi, cioè di abbellimenti vocali che vengono direttamente dalla tradizione araba. Vi faccio sentire, per chiudere questa parte dedicata a quest'area, l'inizio di Wartime Blues, i primi due ritornelli di Wartime Blues di Blind Lemon Jefferson, registrati alla metà degli anni 20. Sentite soprattutto all'inizio delle frasi come il modo in cui emette i suoni è proprio quello di un canto del muezzin. What is gonna do when it's in your man to war? What is gonna do when it's in your man to war? What is gonna do when it's in your man to war? Drink my water, sleep in a harbor low. Ain't got nobody, I'm all here by myself. Got nobody, all here by myself. Got nobody, all here by myself. Well, these women don't care, but the men don't need me. When I'm gone to the river, when I'm walking up and down, going to the river, walking up and down, going to the river, walking up and down, when I'm fine for seeing, I'm gonna jump over the ground. È chiaro che nel canto di Blind Lemon Jefferson riaffiorano memorie ancestrali di cui evidentemente nel sud degli Stati Uniti non poteva aver trovato alcun tipo di esempio, o tantomeno nel nord, visto che queste registrazioni sono state fatte a Chicago. Ora ci dobbiamo chiedere, anzi, prima fatemi aggiungere un'altra cosa, non vorrei dare l'idea errata che nelle culture Niger-Congo-A o afroasiatiche, ma soprattutto Niger-Congo-A, non ci siano delle grandi tradizioni di musica per tamburi, che fin qui non abbiamo ascoltato. Al contrario, per esempio il Senegal ha una straordinaria ricchezza di repertori, strumenti, ritualità legati ad ensemble di tamburi. Il punto che ci dobbiamo chiedere è: ma perché poi nel sud degli Stati Uniti, per esempio, è arrivato il canto, è arrivato il ritmo dell'arpa senegalese, è sopravvissuto il ritmo dell'arpa senegalese, è sopravvissuto il canto del muezzin di Jefferson, è sopravvissuta la linea melodica della ragazzina Tikar che macina il miglio e non sono sopravvissuti i tamburi. E perché a Rio de Janeiro abbiamo, o a La Habana abbiamo un sacco di tamburi, mentre, che so, in Virginia no, ma abbiamo il banjo? Per dare una prima risposta a questo problema, dobbiamo tornare alla nostra mappa delle migrazioni. Cosa succede? Succede che intorno alla metà del XVI secolo, quando spagnoli e portoghesi dominavano la tratta degli schiavi, la tratta atlantica degli schiavi, a un certo punto il re Carlo V prende una decisione che sui libri di storia non è riportata, ma che per la nostra storia ha una rilevanza epocale. Siccome molti degli schiavi che venivano dalle aree del Senegal erano islamizzati ed erano venivano per esempio da grandi tradizioni statali come l'impero del Mali o avevano una grande cultura per esempio della resistenza guerriera, questi schiavi erano schiavi rompiscatole, erano schiavi che non piegavano la testa, erano schiavi che creavano continuamente problemi, erano schiavi che davano continuamente origine a rivolte. E dovevano essere talmente problematici che a un certo punto nel 1526 Carlo V emette un editto che dice: basta prendere schiavi, dice Gelofes, Wolof, dove tra l'altro c'è una grande tradizione di tamburi, del Senegal, bisogna prendere schiavi che vengono più da sud. E quindi la tratta degli schiavi si sposta gradualmente verso le coste via via più meridionali dell'Africa centrale. Ma man mano che ci si sposta giù, e vedete che tra l'altro man mano che ci si sposta giù, vedete, le fasce diventano via via più spesse, perché aumenta la quantità di schiavi che vengono prelevati e deportati nelle Americhe, man mano che si va giù si entra in un'altra area culturale, che è l'area culturale delle lingue Niger-Congo B, dette anche lingue Bantu, che è un termine sul quale adesso non mi soffermo, ma insomma è un termine molto controverso. Noi lo usiamo adesso qui in maniera più, come dire, più libera, più per sintesi, ecco. Man mano che si va verso sud e si entra nell'area arancione, per capirci, via via scompaiono le tradizioni di cordofoni e si rafforzano le tradizioni bantu di tamburi, campanacci, grandi ensemble di tamburi che incrociano e intrecciano ritmi, campanacci che suonano delle figurazioni ritmiche ostinate, ripetute, e canto corale. È molto più raro trovare la ragazzina che canta o il muezzin che vocalizza. Troviamo invece cori oppure ensemble che rispondono a un solista, botta e risposta. Quando voi sentite gli effetti di botta e risposta nel gospel, ricordatevi che quegli effetti di botta e risposta sono bantu, vengono da lì. Un altro elemento di profonda africanizzazione della nostra musica. E questo vale anche quando adesso fra qualche settimana si abbatterà sul nostro paese lo tsunami di Sanremo e vedete il cantante con il coro che gli risponde dietro, il solista con il coro che gli risponde dietro, beh, quello, ricordatevi, quella è un'eredità del mondo bantu. Poi cambiate canale e va bene lo stesso. Come funziona la musica del mondo bantu? È una musica molto complessa, ci sono grandissime varietà di tradizioni, per esempio abbiamo tutta la tradizione degli xilofoni, ancora anche in qualche misura minore, però cordofoni che evidentemente non possono suonare con grandi ensemble di tamburi perché non si sentono, ma domina l'idea della danza accompagnata da questi ensemble di tamburi, campanacci e coro. Allora voglio farvi sentire in particolare un esempio di ritmo e vocalità bantu, è un esempio che Akan, che viene dal Ghana, ed è quel tipo di suono che noi abitualmente associamo all'Africa nera, cioè ai poliritmi africani e al tipo di coralità africana, con tanto di campanaccio che sentirete. Adesso in questo esempio che ho scelto in realtà il coro non c'è, ma sentite l'ensemble di tamburi. interrompo un po' bruscamente, ma questo esempio ci mostra una cosa interessante. Avete sentito quanto è diverso dagli esempi che abbiamo sentito prima? Ritmi stretti, regolari, questo campanaccio, questo ritmo, con i tamburi che entrano e escono, dietro si intrasente un coro. È una musica molto diversa da quella che abbiamo ascoltato prima. Allora, guardate questa mappa che ha fatto sempre Gerard Kubik, qui dall'edizione inglese del libro L'Africa e il Blues. Notate che le aree da cui provengono gli elementi più blues, che è quella area più scura che vedete in alto a sinistra, appartiene, guarda caso, alle aree di linguaggio Niger-Congo A. Mentre le aree, questa parte più, diciamo, ocra quasi, marroncino chiara, dell'Africa centrale, è l'area dove ci sono i tamburi e i campanacci che fanno quel ritmo che avete sentito prima. È impressionante vedere come l'area da cui proviene il blues, diciamo i tratti blues, è un'area che corrisponde alle lingue Niger-Congo A. L'area da cui invece provengono i tamburi e i campanacci è l'area delle lingue Niger-Congo B. Cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui, dalla seconda metà del Cinquecento, i negrieri hanno portato gli schiavi che provenivano da culture di tipo Niger-Congo B, le cosiddette culture Bantu, è arrivata un'ondata massiccia, vi ricordate che lì la freccia diventa molto più spessa, milioni di persone che portano una cultura del tamburo e del campanaccio. E queste milioni di persone, voglio farvi vedere, torno un attimo indietro nella mappa, voglio farvi vedere anche se non era prevista, però voglio tornare un attimo a questa slide. Guardate che gran parte degli schiavi provenienti dalle aree come per esempio l'Angola, notate, dall'Africa centro-occidentale, poi vanno o verso i Caraibi o verso l'America meridionale, Brasile soprattutto, principalmente. Allora, quello che ci dobbiamo chiedere è perché in Brasile il banjo non ci è arrivato? Intanto perché il banjo, vedete, viene da aree dell'Africa più settentrionale, molte delle quali sono state, diciamo, questa cultura è stata in qualche modo seppellita dalla grande quantità di schiavi bantu che portavano tamburi, una cultura del tamburo e del campanaccio che chiaramente è incompatibile con un arpa liuto, per esempio, o con uno halam che scompare, viene annegato da un ensemble di tamburi. Ma questo aspetto lo spieghiamo meglio fra qualche istante se cominciamo a osservare quello che succede negli Stati Uniti in particolare. Ora, una delle aree dove il banjo e parte dei tratti del blues sono apparsi sono le aree dove c'era l'economia della schiavitù nelle colonie inglesi. In questa mappa vedete in verde il piantagione di tabacco, in arancione riso e indaco. Cosa accade in queste colonie? Allora, c'è da dire una cosa fondamentale, che gli inglesi, quando ricevettero, acquistarono gli schiavi, imposero una serie di regole restrittive alle forme di espressione di questi schiavi, in particolare alle forme musicali. Sì, alle forme musicali. In tutte le colonie protestanti, e in particolare in quelle inglesi del Nord America, agli schiavi che prevalentemente venivano, per esempio, dal Senegal, dal Gambia, o anche più tardi da aree bantu, fu proibito di usare i tamburi. Questa proibizione di usare i tamburi aveva una ragione molto solida, e che tutte le aree Niger-Congo A e Niger-Congo B sono aree di lingue tonali. Le lingue tonali sono le lingue, come molte lingue africane, come per esempio una lingua che ormai ci è molto familiare, che è il cinese. Queste lingue sono tonali, vuol dire che il significato delle parole cambia a seconda dell'intonazione, o meglio, la parola ha un significato se voi la intonate in un certo modo. Di solito i livelli di intonazione sono tre: acuto, medio, grave. Io vivo a Prato, quindi sono un esperto di lingua cinese. Per parlare al mio condominio è abbastanza normale, diciamo. e alle riunioni di condominio, si parla in cinese, le lingue tonali consentono a chi usa tamburi intonati, come per esempio quelli che si usano in Senegal o in Gambia, il djembé per fare un esempio, che tutti conoscete, questi tamburi cosa fanno? Cambiano di altezza e si possono creare come delle frasi molto elementari, che magari affascinerebbero Chomsky, cioè strutture sintattiche basilari molto elementari con cui comunicare anche a distanza. Per molto tempo si è pensato che questo tipo di comunicazione fosse basato sui tamburi su un alfabeto morse, cioè a seconda del tipo di ritmo. No, non è il tipo di ritmo, è il tipo di melodia che crea il tamburo, che dà l'idea, che diciamo veicola un contenuto semantico, un significato, delle frasi. Quindi, in un certo senso, dal loro punto di vista, gli schiavisti inglesi fecero bene a proibire i tamburi. Il risultato qual è? È che i tamburi sono spariti dalle colonie nordamericane e sono rimasti gli strumenti più inoffensivi. Halam, arpa liuto e altri strumenti simili. Il canto, naturalmente. E molti elementi ritmici sono stati riconvertiti su altri media, su altri strumenti. Piccoli tamburelli inoffensivi che non hanno una grande gittata acustica, che non possono essere sentiti da lontano o non possono essere intonati, oppure battersi sul corpo i ritmi. Era una tecnica che si chiamava patting juba, che usavano gli schiavi, in cui si danzava facendo ritmi, battendo i piedi e battendo sulle cosce, sulle braccia, il ritmo. Abbiamo un famoso acquerello del fine 700, primi 800, che si chiama The Old Plantation, probabilmente una scena del South Carolina, è uno dei documenti più importanti che abbiamo per capire che musica si facesse durante i pochi momenti che gli schiavi avevano di relax. E vedete in questa scena, anzitutto al centro c'è una danza. Questa danza è stata riconosciuta come una danza Yoruba, quindi una danza di area Niger Congo B, quindi una cultura molto diversa da quella di cui abbiamo parlato fino ad ora, una cultura più del tamburo, ma questi non hanno tamburi, danzano. È una danza rituale, le due donne agitano dei fazzoletti per accogliere un uomo evidentemente di un qualche rango, non solo perché è vestito meglio, ma perché ha un bastone che è tradizionalmente il simbolo di un rango alto. Notate tra l'altro che l'uomo, sebbene con il tratto un po' rozzo di questo acquerellista che non era certo Raffaello, ma insomma ci fa capire che l'uomo danza sulla punta dei piedi sbilanciando il busto in avanti, che è un tipo di coreografia che si ritrova ancora oggi, se andate a vedere i film di Fred Astaire, soprattutto di Gene Kelly, no? Di questa cosa che si ritrova nel mondo americano, nella danza statunitense, del camminare, del far finta di cadere in avanti. Ecco da dove viene. Il gruppo musicale che li accompagna non è un gruppo di tamburi, è un gruppo, da un punto di vista dei padroni schiavistici, inoffensivo. C'è un banjo, che è praticamente una traduzione americana dell'Ahlam. Quindi quella musica che avete sentito prima dell'Ahlam, o forse anche del Garaya, i Led Zeppelin fatti su una corda sola, è probabilmente la cosa che sta suonando quell'uomo a fianco, quell'uomo sulla destra. Alla sua sinistra c'è un altro individuo col turbante che suona un piccolo tamburello tenuto fra le ginocchia con delle bacchette, di cui ci possiamo immaginare facilmente un suono più secco, meno profondo e proiettato dei tamburi bantu che abbiamo ascoltato poc'anzi. Questo è un buon esempio di come doveva suonare. Non è difficile immaginarselo. Se avete sentito il banjo del Kentucky di prima, possiamo immaginarci come doveva essere la musica in questa scena di piantagione tra fine 700 e primi 800. Ora, questo è quello che succede nelle colonie anglosassoni degli Stati Uniti, o meglio, non sono ancora gli Stati Uniti, le colonie anglosassoni dell'America del Nord. Ma L'America nel Nord non era colonizzata solo dagli inglesi, e qui comincia un'altra parte interessante della nostra storia, per cercare di dare risposta alla domanda di questa conferenza. Il territorio nordamericano era diviso, era stato conquistato da vari conquistatori. In arancione le colonie spagnole, in rossastro, rosa, salmone quelle inglesi, ma in blu, trovate in azzurro, la vasta area delle colonie francesi. E queste colonie francesi implicavano, lo vedete in fondo, 1718, la fondazione di una parola un po' grossa, erano 1718 la fondazione della Nouvelle-Orléans, 10 anni dopo aveva 400 abitanti, quindi parliamo neanche di un villaggio, proprio di un avamposto. Chi ha visto il film The New World di Terrence Malick, che pure parla delle colonie inglesi, avrà un'idea di come erano queste colonie, cioè una palizzata e, per proteggersi, e quattro capanne. La Nouvelle-Orléans era questo. La storia della Nouvelle-Orléans, quindi una città fondata da uno stato cattolico, un reame cattolico, quello della Francia, la storia di questa città è molto affascinante e la riassumiamo con una rapidissima cronologia per vedere come funziona. Allora, nel 1718 è stata fondata dai francesi la Nuova Orléans. Nel 1763 la città è ceduta dalla Francia agli spagnoli. Perché? Perché i francesi, per una serie di motivi che adesso non vi sto a spiegare, non sapevano alla fine cosa farsene. Questo avamposto, benché fosse cresciuto da un punto di vista demografico, non fruttava, non offriva niente. Per cui all'interno di una serie di trattati di guerra, che comprendevano anche tra l'altro la cessione della Florida, insomma era una storia piuttosto complessa, a un certo punto tutta la colonia della Louisiana e in particolare la città della Nouvelle-Orléans viene ceduta alla Spagna nel 1763. Nel frattempo, fra il 18 e il 63, come vedremo anche dopo, i francesi avevano immigrato, avevano portato lì anche degli schiavi africani, e schiavi che venivano principalmente dal Senegal, schiavi con una cultura, e dal Mali, schiavi Mandinga e Bambara, schiavi che portavano una cultura dei cantastorie, una cultura della vocalità, una cultura dei cordofoni, a New Orleans. La città è ceduta dalla Francia alla Spagna, e la Spagna fa di New Orleans la città che oggi conosciamo, cioè la trasforma da grezzo avamposto a città, quindi edifici, quartieri, fognature, un'amministrazione seria, un governatore, insomma tutto, diciamo, l'apparato urbanistico e amministrativo di una vera città. Il nucleo antico che vediamo oggi di New Orleans, benché la città sia stata poi devastata per un paio di volte da incendi distruttivi, è comunque quello creato dagli spagnoli. Ora, su questo aspetto vedremo tra un momento che cosa significa questa terza linea. Nel 1786, una scoperta recente dello studioso Ned Sublette, su un documento amministrativo della città, del governatore, compare la parola tango, che quindi non compare per la prima volta a Buenos Aires, ma compare nella cattolica spagnola New Orleans. Sapete che voleva dire tango? Era una parola bantu che voleva dire ballare e danzare. Ballare e suonare, scusatemi. Fare casino. Infatti, compare su un documento amministrativo nel quale il governatore di New York, per proteggere i buoni cittadini che vogliono dormire la notte, dice che dopo una certa ora i negri la devono finire a fare los tangos de los negros. Cioè il casino notturno. Nel 1800, nell'ambito di una serie di complesse trattative di carattere politico, segretamente, senza che nessuno dica niente in giro, la città torna alla Francia. Ma è una cosa breve, perché per tutta una serie di problemi che dovremo affrontare tra poco, Napoleone a un certo punto decide di sbarazzarsi di tutta una serie di colonie francesi che c'aveva in America. Tra queste, tutta la Louisiana, e vende la Louisiana ai neonati Stati Uniti. Proprio è una questione di soldi, la vende in cambio di una cifra e naturalmente non solo vende tutta la regione, ma anche la città, che quindi diventa parte degli Stati Uniti. E in particolare nel 1812, vediamo fra un attimo, c'è l'ingresso nella Confederazione. Guardiamo prima l'ultima voce, la Louisiana, scusate, è annessa all'Unione, non alla Confederazione del Nord, all'Unione, mentre nel 1809, una cosa che vedremo dopo, la città diventa ancora più francese, perché per un meccanismo che vedremo fra poco, la città diventa ancora più francese perché c'è un'immigrazione massiccia di francesi da Saint-Domingue, che nel frattempo era diventata Haiti. Ora, per capire la questione della parola tango e per capire quello che sto per raccontarvi adesso, dovete pensare che ritornare a quella mappa delle migrazioni dall'Africa centro-occidentale. Abbiamo visto che c'è una ondata che per 2 secoli e mezzo prosegue di schiavi bantu che portano ritmi, parole, culture del tamburo, culture bantu. Queste culture viaggiano attraverso non solo i Caraibi, ma anche attraverso l'Atlantico, perché per esempio i padroni spagnoli che hanno gli schiavi a Cuba viaggiano fra Cuba e la Spagna, fra le colonie portoghesi e il Portogallo. E quelle che vedete scritte, Zarabanda, Sciaccona, Bambulà, vi ricordate chi era presente alla scorsa lezione sa cos'è la Bambulà? A chi non c'era non glielo diciamo per dispetto. Queste danze circolano in tutta l'area del Golfo del Messico e dei Caraibi, attraversano anche l'Atlantico, tra l'altro si incrociano con un'influenza da sud verso nord che viene dall'Africa verso Siviglia e poi Napoli e anche Bari, in realtà tutto il Mediterraneo, diciamo così, danza al ritmo di danze bantu, come la Bambulà che Luis Moro Gottschalk aveva tradotto per pianoforte nel 1846-47. Come vedete, ci sono due cose importanti qui da rilevare. La prima è che New Orleans appartiene a un complesso culturale che non è nordamericano, ma è cattolico-caraibico, non è protestante nordamericano, ma rientra in una sfera geografica culturale che è piuttosto cattolico-caraibica e mediterranea, visto che è colonia prima francese e poi spagnola. Quindi ha contatti diretti col mondo mediterraneo spagnolo. E aggiungo anche che in virtù di questi flussi cominciano ad apparire nei Caraibi e a New Orleans, abbiamo visto, cioè in tutta quest'area cattolico-caraibica, una serie di parole bantu. So che siete tutti fortissimi col bantu e in effetti tutti conoscete delle parole bantu. Provo a elencarne alcune. La prima l'abbiamo già detta, tango. Un'altra è mambo. Un'altra è conga, un'altra è rumba, un'altra è samba. Sono tutte parole soprattutto di etnia Congo, cioè diciamo nella parte centrale fra l'Angola e l'attuale Repubblica Democratica del Congo. Queste parole si riferiscono a riti, a strumenti, a danze. Bambulà è un'altra parola bantu. Zarabanda, forse qualcuno di là nelle lezioni di musica in questo momento ha un fremito perché non se l'aspetta, però Zarabanda in realtà è l'unione di due parole bantu, Nsala e Banda, che secondo Robert Farris Thompson vogliono dire eleviamo lo spirito, liberiamo lo spirito. Ed è una danza che si danza a Cuba già nel XVII secolo all'interno di un rito che si chiama Mambo. Questo per dirvi che quando i nostri genitori o zii o nonni, a seconda dell'età delle persone qui dentro, negli anni 50 agitavano il sedere ballando il mambo a Roma, a New York o a Taiwan, Chi si ricorda il film Il buco di Tsai Ming Liang sa che si ballava il mambo anche a Taiwan negli anni 50. Bene, da Taiwan a Roma a New York si ballava musica con un nome bantu e con coreografia bantu. Questo ancora per farvi capire quanto profondamente siamo stati africanizzati dagli schiavi che abbiamo portato in Occidente. Questi elementi bantu in alcuni casi sono rimasti forti anche a livello rituale, e forse l'aspetto rituale a New Orleans più forte delle culture Congo è il funerale New Orleans, cioè quel funerale attraverso il quale si fa musica nel momento in cui il defunto viene portato alla sepoltura, ed è una musica più drammatica, più triste, più funebre appunto, e poi dopo la sepoltura si torna a casa attraverso un momento rituale invece liberatorio, di musica più allegra, più vivace. Il motivo per cui il ritorno è più allegro e più vivace risiede proprio nel significato della musica del ritorno nelle culture Congo. Come dice uno studioso, dice: il defunto non vuole che tu sia triste, perché se sei triste poi in un certo senso irriti il defunto, e soprattutto devi fare musica, perché il defunto non vuole andare dall'altra parte nel silenzio, perché se lo mandi dall'altra parte nel silenzio poi torna e la notte ti dà fastidio, diciamo così. Cioè, c'è questo timore che lo spirito sia irritato dall'assenza di gioia e di musica. Quindi il funerale New Orleans è un funerale prima adottato dagli africani di etnia Congo, che sono stati portati da chi? Vi ricordate la cronologia? Dagli spagnoli. Perché nel momento in cui arrivano gli spagnoli portano dall'Africa centrale schiavi bantu, che portano ad esempio la cultura del funerale Congo. Questo funerale Congo poi viene adottato dai cattolici bianchi e poi anche più tardi dai protestanti. Ho parlato moltissimo, dedichiamo i prossimi minuti a vedere un filmato impressionante che potete trovare tutti su YouTube. È un filmato non professionale, questo lo rende ancora più bello, fatto probabilmente con un cellulare, quindi la qualità video, la qualità del suono è quella che è, però trasmette una grande emozione. È un filmato, credo, fatto alla fine degli anni 90, in onore di un suonatore di basso tuba di New Orleans che si chiama Kerwin James. Vedete com'è un funerale Congo, e come funziona la musica, e come la musica serve a portare in maniera quasi gioiosa il defunto alla sepoltura. Cosa suonano tutti i musicisti? Che sono, vedrete, un sacco di bassi tuba, ovviamente, perché essendo il funerale di un tubista. Suonano Just a Closer Walk with Thee, che è un vecchio inno di origine protestante. Ecco, poi vedremo come si mescolano queste cose, che veniva suonato a New Orleans nell'Ottocento e ancora oggi nei funerali New Orleans viene suonato. Lo vediamo tutto perché è impressionante. Chi di noi non vorrebbe un funerale così, diciamoci la verità. Il ruolo di New Orleans nel complesso culturale, diciamo così, afro-caraibico, è piuttosto complesso. Provo a mostrarvi questa mappa che io ho creato per la mia storia del jazz. New Orleans, vedete, è al centro di una serie di movimenti. Provo a spiegarvi rapidamente. La linea tratteggiata va riferita a quella mappa precedente in cui abbiamo visto i rapporti culturali e commerciali tra il mondo caraibico e il Mediterraneo. E quindi quella linea, diciamo, ovviamente coinvolge anche New Orleans, il Messico, L'Avana, che era colonia spagnola, Europa e Africa dall'altra parte. Ora a noi interessa la parte meridionale di questa mappa, cioè quella freccia che tra il 1790 e il 1804 va da Haiti verso Santiago de Cuba. Perché? Perché siamo di fronte a uno dei fenomeni storici più importanti della storia occidentale e meno raccontati sulle storie, direi, della musica in generale, ma anche delle storie in generale, e cioè la rivoluzione di Saint-Domingue, ovvero la rivoluzione di Haiti. Cosa succede? Saint-Domingue, la parte occidentale, scusate, dell'attuale isola di Haiti, era colonia francese ed era tra l'altro il più grande campo di concentramento di schiavi a cielo aperto, del mondo occidentale, perché era un'enorme piantagione, soprattutto di canna da zucchero. I francesi a un certo punto subirono una rivolta di schiavi che cominciò nel 1790 e questa rivolta di schiavi via via si trasformò in una vera e propria rivoluzione. Questa rivoluzione si concluse con la vittoria, che fu tra l'altro, lasciatemi aggiungere, sanguinosa in un modo terrificante. È stato uno degli episodi storicamente più violenti della storia recente del mondo occidentale. Questa rivoluzione e questo bagno di sangue immane si concluse con la vittoria degli ex schiavi sull'esercito di Napoleone, 1804, e con la proclamazione, invece che di Saint-Domingue, che era il nome francese dell'isola, della colonia, nella proclamazione della libera Repubblica di Haiti, 1804. Era praticamente una delle tre repubbliche, anzi ormai erano due, perché quella francese era diventata, sotto Napoleone, un impero. C'era la Repubblica degli Stati Uniti e la Repubblica di Haiti, solo che questa Haiti tra l'altro era il nome indio dell'isola, quindi non più Saint-Domingue, ma col vecchio nome indio dell'isola. La Repubblica di Haiti diventa la prima repubblica nera di ex schiavi della storia dell'umanità. Questa rivoluzione sanguinosissima porta a un flusso di profughi, di nuovo una storia di migrazioni. Questi profughi fra il 1790 e il 1804 fuggono da Saint-Domingue, o se preferite Haiti, verso la vicina Santiago de Cuba. Chi sono questi profughi? Sono francesi o persone nate lì di lingua francese, bianchi, creoli misti francesi e neri e schiavi neri, o schiavi che fuggivano comunque dalla violenza della guerra o che venivano portati con sé dai loro padroni. Sono migliaia di persone che attraversano uno stretto braccio di mare, come quasi, diciamo, da qui all'Albania o dalla Tunisia alla Sicilia, per arrivare a Santiago de Cuba. Perché Cuba? Perché è vicina, perché le correnti ti ci portano e perché è cattolica. In fondo Santiago aveva già delle enclave di coloni francesi che facevano affari con gli spagnoli. Sono sempre europei, lingue neolatine che si comprendono fra di loro, e quindi abbiamo una presenza franco-africana, diciamo, a Santiago de Cuba e poi in tutta l'isola. Tra l'altro, Cuba, dal punto di vista della musica nera, era una colonia spagnola. Allora, qui c'è da aggiungere una cosa importante. Nelle colonie cattoliche, come per esempio Saint-Domingue, Cuba e giù, per esempio, il Brasile, che era portoghese dalla fine del 400, i coloni cattolici avevano adottato nei confronti della musica degli schiavi africani un atteggiamento diverso rispetto ai coloni anglosassoni e protestanti. Attenzione, erano ugualmente crudeli, forse anche di più. ugualmente feroci e sanguinari. Vorrei ricordare che insomma, i cattolici francesi hanno avuto il marchese de Sade, quindi da questo punto di vista non hanno nulla da invidiare a nessuno, ma avevano pensato di controllare gli schiavi utilizzando una strategia diversa. In certe fasi della storia hanno consentito agli schiavi di utilizzare i loro strumenti e le loro lingue d'origine. Quindi, visto che siamo in aree prevalentemente bantu, perché vengono dall'Africa centro-occidentale dopo il XVII secolo, abbiamo una grande cultura del tamburo ad Haiti, a Cuba, in Brasile. Questo è uno dei primi motivi per cui i tamburi non li troviamo in Virginia e li troviamo a Rio de Janeiro, perché nel corso del tempo l'utilizzo dei tamburi e delle lingue africane fu consentito a patto che durante i riti religiosi, come per esempio che so, le processioni del Venerdì Santo, gli schiavi celebrassero i santi e le figure diciamo, religiose cattoliche dentro una ritualità cattolica, creando così un sincretismo religioso in cui in superficie avete che so, i santi cattolici e nel sottofondo avete le divinità Yoruba che furono in un certo senso messe sotto, diciamo, i santi cattolici servivano a coprire in realtà le vere divinità, come succede per esempio nella santeria cubana o nel voodoo di San Domingue, nel voodoo haitiano. Anzi, il voodoo ebbe un ruolo poi fondamentale come religione segreta per organizzare la rivolta che poi diventerà rivoluzione e porterà alla proclamazione della Repubblica. Questo per dirvi che le culture di Haiti, la cultura di Cuba, la cultura del Brasile, la cultura del Venezuela sono culture del tamburo, culture in cui gli elementi bantu si sono conservati in maniera piuttosto consistente ancora oggi. Pensate al candomblé brasiliano, che è un altro tipo di sincretismo fra religioni dell'Africa centrale, bantu e il mondo cattolico. E questo ha fatto sì che ci fosse una qualche compatibilità tra la musica che portavano gli schiavi africani da Haiti e quella degli schiavi africani a Cuba. Ora il problema qual è? È che tra il 1808 e il 1809 Napoleone invade la Spagna. Cioè i fatti di guerra europei influenzano gli eventi nelle colonie. Francesi e spagnoli ora sono nemici. Quindi tutti i francesi che si trovano a Cuba con i loro schiavi vengono espulsi in massa. E dove vanno questi individui? Vuoi per le correnti marine, vuoi per un fatto culturale, vanno nella città francese più vicina, New Orleans. New Orleans era stata fondata dai francesi, era stata governata fino a pochi anni prima dagli spagnoli. Ora era una città americana, ma culturalmente era una città cattolica europea. Ecco che assistiamo, quindi, intorno al tra il 1809 e 10-11, ad una migrazione massiccia di persone di lingua francese o di schiavi provenienti da Haiti che cambiano la fisionomia di New Orleans. Pensate che parliamo di 2731 bianchi, 3102 neri liberi, cioè che non erano più schiavi ma che erano neri liberi di lingua francese, e 3.226 schiavi di origine africana. Cioè, i neri erano due terzi dei bianchi. Questo trasforma New Orleans, che era già una città bantu, già una città cattolica, la ritrasforma in una città ancora più francese di quanto fosse prima e ancora più bantu di quanto fosse prima. Per esempio, a New Orleans arriva il voodoo. Tanto per darvi una traccia, la nonna di Jelly Roll Morton, che è nato a New Orleans, ma la nonna era di origini haitiane ed era una sacerdotessa voodoo. La grande fioritura di cultura creola franco-francese nera, pensate che so, musicisti come Sidney Bechet, Barney Bigard, i grandi clarinettisti, viene proprio da questa fusione di francesi e neri che arrivano a New Orleans intorno al 1809-1810. Dove sono i tamburi a New Orleans? Ci sono i tamburi bantu a New Orleans? Sì, ci sono. Gli schiavi che suonano i tamburi e altri strumenti si ritrovano, come succede in tutte le colonie cattoliche, la domenica non si lavora, è sacra, ed è possibile per gli schiavi, sotto lo sguardo dei sorveglianti, di girare liberamente, tant'è che Come sapete, a New Orleans girava la parola tango, come dire, fare casino la domenica fino a tarda notte. Il posto in cui si trovavano tutti gli schiavi era un posto divenuto poi leggendario, che si chiamava Place Congo, cioè la piazza Congo, già questo dice tutto, di cui esiste anche qui una sorta di acquerello in cui si vede questa riunione. Qui questo acquerello è molto compassato, è molto apollineo, diciamo così, chi ha dipinto questa cosa. In realtà si trattava di un raduno di migliaia di schiavi che danzavano dalla mattina fino a tarda sera e si riunivano in, come dire, si dividevano per etnie, ognuno con i suoi strumenti, ognuno con la sua lingua, ognuno con la sua ritualità e i suoi tipi di danze. In molti di questi veniva praticato il voodoo, parliamo dopo il 1809, con l'arrivo, abbiamo visto, di 2.300 schiavi africani, di origine africana, e questo tipo di, diciamo, di presenza porta a moltissime, a una fusione di elementi musicali, bambara, mandinghe, senegalesi, banjo, arpe, tamburi. Ne siamo sicuri? C'era qualcuno lì? Sì. Abbiamo perfino un testimone oculare diretto che si chiama Benjamin Latrobe, che era un architetto che è stato importantissimo per la cultura statunitense, perché è uno degli architetti che ha fatto, per esempio, il Campidoglio a Washington. Era un architetto di origine inglese, che a un certo punto, viaggiando per gli Stati Uniti, quindi era un architetto, quindi sapeva disegnare. Ma questo non solo sapeva disegnare, aveva anche un orecchio eccellente. Non so quanti architetti hanno degli orecchi eccellenti, però forse Renzo Piano sì, visto che siamo in questo posto. Ma Benjamin Latrobe ci ha lasciato una serie di appunti, non solo in cui descrive le danze di Place Congo in estremo dettaglio, ma addirittura disegna gli strumenti. E ci troviamo i tamburi Bantu, quelli che non si trovano in Virginia. Questo non è il tamburello con le bacchette che avete visto in The Old Plantation. Questo è stesso periodo, tra l'altro, fine 700, primi 800. Questi sono tamburi potenti, però ci sono anche i cordofoni, guardate, una specie di halam. Addirittura la testata, guardate, lui disegna quella figurina, la vedete? Quella figurina umana, chiaramente africana. Cioè, c'erano artigiani che avevano, africani, schiavi, che avevano conservato la memoria di come si intaglia uno strumento con la figurina messa in cima. E questi disegni ci dimostrano che culture diverse si erano fuse e mescolate, un po' come in The Old Plantation, la danza Yoruba, i musicisti Hausa. Qui invece i tamburi Bantu, i cordofoni afroasiatici, che si fondono in un unico mondo. Questa mescolanza, torno un attimo indietro alla mappa precedente, questa mescolanza è ulteriormente rafforzata dal movimento interno di schiavi. Vediamo la freccia che va dalla Virginia, South Carolina, verso New Orleans. Intorno al 1805, che cosa succede? C'è un altro passaggio storico importante e molto drammatico. Tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, gli stati della Confederazione e dell'Unione, diciamo le colonie, ex colonie inglesi, proibiscono l'importazione di schiavi. Cosa vuol dire? Non è che viene proibita la schiavitù, attenzione, viene proibita l'importazione, l'acquisto degli schiavi. Non puoi più acquistare schiavi dall'Africa. Ma nello stesso periodo, verso la fine del Settecento, ci fu, per motivi tecnologici e anche diciamo, di scoperta chimica di alcune specie di cotone, ci fu un'esplosione dell'economia rurale del cotone. Si riuscì a piantare il cotone e a trattarlo con delle macchine praticamente ovunque nel sud degli Stati Uniti, a tutte le latitudini, cosa che prima non era possibile. Allora succede che io ho un'esplosione economica di cotone, una grande richiesta di cotone anche dall'Europa, vi ricordo che siamo agli inizi della rivoluzione industriale, ma ho meno manodopera perché non posso più comprare schiavi dall'Africa. Allora comincia una seconda fase della schiavitù, la più disgustosa, cioè quella dell'allevamento degli schiavi. Prendere un maschio, prendere una femmina, farli accoppiare, produrre una prole e questa prole per il proprietario di schiavi è una specie di conto in banca, perché investo dei soldi per nutrirlo e farlo crescere, ma poi a 14-15 anni, quando ha la forza di lavorare, lo vendo, oppure lo utilizzo nella mia piccola piantagione. Stiamo parlando di piccoli proprietari di schiavi, gente che aveva 7, 8, 10, 12 schiavi. Le grandi piantagioni che vedete in Via Col Vento o nei film erano un'eccezione, erano quasi tutti piccoli proprietari. Non ho la mia piantagione, le cose non vanno bene, vendo il ragazzino che ho cresciuto. È un investimento, è capitalismo puro sulla pelle delle persone. Quindi noi assistiamo a quella che Leroy Jones, Amiri Baraka, che è scomparso qualche settimana fa e che ricordiamo qui, chiamò la grande trasformazione della cultura degli schiavi. Non più schiavi con una memoria africana, ma schiavi americani. Neri americani, neri statunitensi, nati sul suolo statunitense, che non parlano, non hanno più alcuna memoria della loro cultura africana. Questa mescolanza di nuovi nero-americani con invece gli africani che arrivavano da Haiti via Cuba, anche nelle aree intorno a New Orleans, porta ad una nuova fusione di culture nere. Capite come si mescola, come si complica, come diventa tutto molto più complesso a livello di complesso culturale. In più New Orleans, a partire dalla metà dell'Ottocento, fu la meta di un flusso di immigrazione più diversi. Qui ho provato a elencarne in ordine grossolanamente cronologico le tante etnie che hanno popolato gradualmente New Orleans dalla sua fondazione alla metà dell'Ottocento. L'hanno fondato i francesi, che ci hanno portato africani bambara e mande, cioè di lingue Niger-Congo a o di lingue afroasiatiche. Poi sono arrivati gli spagnoli, che invece hanno portato gli africani Congo, quelli Bantu, i tamburi. Ovviamente gli anglosassoni, aumentati quando la città è diventata parte dell'Unione. Poi sono arrivati i francesi da Saint-Domingue, da Haiti, gli africani da Saint-Domingue. A metà dell'Ottocento, fuggendo dalle rivoluzioni fallite del 48, arrivano i tedeschi in massa, gli ebrei ovviamente che fuggivano dai pogrom, gli irlandesi e poi a partire dagli anni 80 dell'Ottocento gli italiani, in particolare i siciliani, in gran numero. C'era un piroscafo diretto che andava da Palermo a New Orleans e poi messicani e cubani, visto che la città era stata spagnola, che giungevano in numero più ridotto, ma comunque significativo. Ditemi quale altra città. Voi direte: ma sì, ma New York, visto il titolo della conferenza, perché il jazz è nato a New Orleans, a New York. Ma New York non era cattolica. New York non aveva il banjo e i tamburi, non aveva Plas Congo, non ha avuto l'arrivo degli schiavi da Haiti, per esempio. New Orleans è unica perché appartiene a questo complesso afro-caraibico. E per farvi capire quanto fosse complessa l'immigrazione a New Orleans, vi faccio vedere molto rapidamente questa mappa. Al numero uno c'è dove è nato Jelly Roll Morton. Vedete Canal Street al centro? Quella taglia in due la città. Nella parte a est c'era la parte dei creoli e dei bianchi, nella parte a ovest c'era la parte dei neri. Per esempio, dove c'è il numero 2 è nato Buddy Bolden, il primo grande trombettista di jazz, si dice, su cui torneremo. Ma Nick La Rocca, siciliano, che poi ha inciso il primo disco di jazz, stava nella parte nera, l'Irish Channel, la zona irlandese, dove c'erano dei bianchi. Non abitava lontano dal nero Bolden. Sapete perché? Perché era comunque un immigrato italiano, era l'ultimo di una catena di immigrati, comunque faceva parte della parte più bassa della scala sociale. I creoli e gli inglesi, gli americani, stavano dall'altra parte. Infatti il creolo Morton nasce nel Seventh Ward. Ora, questa conferenza non riguarda come il jazz è nato a New Orleans, quindi adesso non vi farò la storia delle musiche che hanno dato origine al jazz, ma ci interessa perché, non come. Però non posso trattenermi dal fare una rapida lista di tutte le tradizioni musicali che tutti quegli immigrati hanno portato a New Orleans. Per esempio, gli europei che hanno portato le danze popolari, gighe, quadriglie, valzer. L'opera lirica, che era al centro della cultura di New Orleans. New Orleans aveva a un certo punto avuto tre teatri lirici, più di quanti ce n'abbia Roma oggi, nell'Ottocento, e funzionavano. Strumenti, ritmi e riti di origine africana, sia Bambara, abbiamo visto, cioè del Senegal, sia Bantu. Melodie creole e riti delle Antille e di Haiti, l'abbiamo già detto, il funerale per esempio. Il canto barbershop afroamericano, che era questo cantare in coro, in maniera così orale, senza rispettare le regole dell'armonia, e che ha creato una forma di armonia molto particolare. Le bande, le brass bands, che sapete passavano per tutte le strade di New Orleans. Danze, repertori e strumenti che venivano dal Messico. Il sassofono, per esempio, che era presente nelle bande messicane ed è arrivato negli Stati Uniti via Messico. Il gospel, la musica religiosa, che era fondamentale per dare un certo calore, una certa proiezione, un certo feeling potente alla musica. Ovviamente il ragtime, suonato dal pianoforte, dalle brass band, dalle orchestre di strumenti a corda con violini e chitarre. Il blues, di cui abbiamo detto qualcosa prima, che veniva dalle campagne. E poi il danzon cubano, a cui dedicheremo gli ultimi 5 minuti di questa conferenza. Perché voglio dedicare gli ultimi 5 minuti di questa conferenza al danzon cubano? Quello che vi racconterò adesso è il risultato anche in parte delle ricerche del mio amico e collega Marcello Piras. E quindi cito lui adesso, ma gran parte delle cose che dirò sono relative a parte delle ricerche che lui stesso ha fatto. Perché il problema che ci si pone adesso, facciamo una specie di piccola zoomata per capire di nuovo perché New Orleans e non New York, o Rio de Janeiro. A Rio de Janeiro, l'avete capito, c'erano troppi tamburi e campanacci per fare il jazz. A quando risale la nascita del jazz a New Orleans? La prima traccia l'abbiamo in una vignetta di una rivista che usciva a New Orleans, che si chiamava The Mascot. Nel 1890 esce in copertina di The Mascot questa vignetta in cui vedete, poi adesso la ingrandisco, questa è la copertina, si vede gente che si dispera per la strada, uno al centro che dice per carità, per l'amore di Dio, smettetela. For God's sake, stop. Ops, scusate, vado indietro. Dice, per carità smettetela, vabbè la lascio così. A chi si rivolge quel disperato e questa gente che sviene per la strada? Si rivolge a un gruppo di strumentisti, chiaramente dai tratti negroidi, che stanno suonando sul balcone di un museo. E guardate che strumenti suonano. Suonano una specie di clarinetto, un trombone e una tromba, un trombone, un clarinetto e un tamburo, provocando la disperazione delle persone che ci sono sotto. 1890, questi signori stanno suonando qualcosa che potremmo identificare come un proto-jazz. Certo, la musica che fanno è talmente altra, talmente diversa, che sconcerta gli ascoltatori che sono di passaggio, al punto che questo qui dice, per l'amor di Dio, fermatevi perché non si può andare avanti, non è musica. Quello che a me interessa in questo ultimo spicchio di lezione non è tanto che musica suonassero questi individui, perché questo riguarda il come è nato il jazz a New Orleans e non il perché, riguarda le musiche che abbiamo elencato prima. Quello che ci interessa è, ed è un piccolo dettaglio alla fine, ma significativo, è perché ci sono quegli strumenti e non altri? Perché non c'è il violino? Oppure, quel trombone in realtà, a guardarlo bene, visto che quello ha le mani così, ha una mano così e l'altra così, un trombone a pistoni forse. Ci soccorre in aiuto una foto del 1896, la banda di Jean Robichaud. Jean Robichaud era un musicista che quel signore, che vedete il secondo da destra, seduto, che suona il violino. Questa è una tipica formazione di banda di New Orleans che suona musica da ballo. Vedete che ci sono due violinisti, c'è un clarinettista, sulla destra in piedi c'è un contrabbassista, poi ci sono due cornette e un trombone a tiro. Il signore sulla sinistra, ve lo faccio vedere perché voi non lo conoscete, ed è uno degli uomini più importanti della storia della musica, nonostante la sua aria di messa. Edward D.D. Chandler è l'inventore della batteria. Lo strumento che trovate oggi ovunque. D.D. Chandler fu l'inventore di uno strumento che era il pedale per la cassa. Lui prese gli strumenti della banda, che sono suonati da due o tre musicisti. Uno porta la cassa appesa al collo, uno suona il rullante, un altro suona i piatti, giusto? Massimo tre, al limite quello che suona il piatto può essere anche attaccato al rullante e lo suona in questo modo. Lui invece, per delle situazioni stanziali, come forse davanti a questa piccola saletta da ballo che si vede sullo sfondo, aveva avuto l'idea di inventare un pedale per cui io posso suonare gli strumenti della banda, invece di farli suonare a tre persone, li suona una persona sola, per giunta da seduto. Il rullante, che è poggiato per terra, un piccolo piatto che si intravede, e la gran cassa. D.D. Chandler ha inventato la batteria. Ogni volta che vedete una batteria in giro, compreso a Sanremo, ricordatevi che c'è un pezzo di Afro America, c'è quest'uomo, qualsiasi sia il genere di musica che ascoltate. Un'altra foto che voglio farvi vedere è ancora più interessante e famosa, è la foto, che avete visto anche in copertina all'inizio, della band di Buddy Bolden. Per chi non è esperto di jazz, chi è Buddy Bolden? Buddy Bolden è considerato una sorta di leggendario inventore del jazz, il primo jazzista di cui si ha notizia. È il signore sulla sinistra in piedi, il secondo dalla sinistra, quello che ha in mano la cornetta, ed è considerato appunto il padre del jazz. Non ha mai inciso nulla, per molto tempo è stato avvolto da un alone di leggenda, si sono raccontate le storie più diverse, ma dagli anni 70, quindi in tempi molto recenti, si è fatta luce e chiarezza sulla sua personalità. L'unica traccia che ci rimane concreta dell'esistenza di Buddy Bolden è l'uomo che si dice abbia portato il blues nel jazz, per esempio, e questa fotografia, che tra l'altro ha una storia pazzesca che adesso qui non raccontiamo. In questa foto manca il batterista, che non c'era in quel momento, nel giorno in cui fecero la foto. Mal gliene incolse perché non poteva immaginare che 100 anni dopo eravamo qui all'auditorium a parlarne. Notate la strumentazione. Due clarinetti, un trombone a pistoni, tra l'altro è il proprietario della foto, Willie Cornish, la cornetta di Bolden, la chitarra, il contrabbasso e aggiungiamo la batteria. Da dove viene questa strumentazione? Questa strumentazione non ha precedenti nella storia di New Orleans, non ha precedenti nella storia musicale americana. Da dove viene questa strumentazione? Questa strumentazione viene dal danzon cubano. Come ha suggerito Marcello Piras, se andiamo a vedere le fotografie di gruppi di danza, cos'è il danzon? Il danzon è un'evoluzione della danza cubana ottocentesca, è una musica da ballo per gruppi, diciamo, per situazioni sociali piuttosto ampie, sorta diciamo, intorno agli inizi del Novecento. Questo gruppo, che è l'Orchestra Flor de Cuba, foto del 1870, notate, il danzon poi viene, diciamo, nasce poco dopo, notate gli strumenti, c'è il trombone a pistoni, ci sono le percussioni, c'è il violino, c'è il contrabbasso, lo vedete il secondo da destra, la cornetta, due clarinetti, sono il secondo e il terzo da sinistra, e c'è un corno che è il primo da sinistra. La formazione è incredibilmente simile a quella di Buddy Bolden. Scorriamo rapidamente altre fotografie. Questa è l'orchestra di Miguel Failde, che è considerato il padre del danzon cubano, l'inventore del danzon. C'è il contrabbasso a sinistra, ci sono i due violini seduti sulla sinistra, come nella band di Robichaud, guardate, e ci sono due clarinetti. C'è il trombone a pistoni dietro, un corno, uno ficleide e un altro strumento che non si distingue all'estrema destra. Ancora un'ultima foto, questa ancora più chiara, l'orchestra di Enrique Peña. Notate la cornetta, c'è il contrabbasso, ci sono due clarinetti, c'è il trombone a pistoni qui al centro seduto in primo piano, lo vedete? E c'è questo strumento che poi è destinato a sparire, questa specie di mostruosità, che appunto si chiama Oficleide, che faceva un po' la parte del baritono basso. Come è arrivata questa ricchezza di, diciamo, questo tipo di formazione? Andiamo a rivedere allora. Ah no, scusate, c'è un altro esempio. Volevo farvi vedere un altro esempio ancora più che ha svelato Piras. Ancora più antico, 1860, ma non parliamo di Cuba, parliamo del Perù, sempre una colonia spagnola, che tra l'altro era stata una delle più ricche colonie spagnole, soprattutto tra il 6 e il 700. Questa è una scena di un grande pittore peruviano, Pancho Fierro, datata 1860, è una scena di matrimonio. In alto a sinistra c'è un gruppo musicale che suona. Ops, scusate, sono fatto un doppio. Vi faccio vedere il dettaglio, ne vale la pena. Guardate, c'è un trombonista sulla sinistra, un clarinettista al centro, un trombettista sulla destra. Percussioni e una specie di corno basso, forse un oficleide, non è un oficleide, è una specie di basso tuba. È la formazione del gruppo New Orleans, solo che siamo in Perù nel 1860. E andiamo a rivedere la band di Bolden, è la stessa strumentazione dei gruppi di danzon cubano che abbiamo visto prima. Da dove viene questa strumentazione? E arriviamo al nocciolo del nostro discorso. Ancora una volta dalle migrazioni. 1898, la guerra ispano-americana, dura poche settimane, molto sanguinosa. Questa è la presa di San Juan Hill, che è un momento chiave della storia della guerra ispano-americana. E nel 1898 questa guerra breve, che tra l'altro porta alla liberazione di Cuba, perché avviene in due posti diversi, a Cuba e nelle Filippine. Gli Stati Uniti fanno guerra alla Spagna in due colonie spagnole, Cuba e le Filippine. E questo porta alla liberazione di entrambe, liberazione poi ovviamente in cambio di una influenza statunitense molto potente, molto forte. L'enclave di Guantanamo che c'è oggi è, diciamo, il risultato ancora di questa guerra, ma la cosa affascinante è che gli Stati Uniti mandarono a Cuba dei gruppi musicali, delle bande che partivano da New Orleans, perché le truppe partivano da New Orleans. Alcuni gruppi di New Orleans suonarono per le truppe che si imbarcavano per L'Avana, per Cuba, per Santiago de Cuba. E a volte le bande andavano insieme ai soldati per suonare lì. Per esempio, la Onward Brass Band. Il cecciottello che vedete a sinistra, il secondo da sinistra, con la cornetta in mano, è stato poi uno dei più grandi cornettisti di New Orleans. Si chiamava Manuel Perez. La cosa fantastica di Manuel Perez è che era cubano. Lui da Cuba era andato a vivere a New Orleans suonava con la Onward e poi tornò a Cuba con la sua banda, quella regolare, gli ottoni, le percussioni, eccetera, a suonare durante la guerra ispano-americana. Perez, tornato a New Orleans, probabilmente è uno di quelli che ha portato l'idea di usare gli strumenti del danzon per far ballare i neri di New Orleans al ritmo del nuovo jazz. Cioè, la danza è quella del jazz, ma la strumentazione è quella della danzon. Io ho parlato moltissimo, vorrei concludere questa conferenza con due brevissimi ascolti musicali. Vorrei mettere a confronto per voi un danzon, per esempio il Calvito de Aureli 89, è un pezzo dedicato a un medico americano. La data appunto è 1889, quella della guerra, registrato dall'orchestra Felipe Valdés 1911. Sentirete una musica tutta scritta, che però verso la fine, e tra l'altro è registrata molto bene, una registrazione Victor dell'11, verso la fine si sentono i musicisti improvvisare. E il suono è quello della cornetta, del trombone, del clarinetto, che sono gli strumenti del futuro jazz. Thank you. due clarinetti. Qui è scritto. Da questo ritmo, un ritmo bantu. Dell'arpa liuto. Ci sono moltissimi elementi bantu, il principale dei quali è questo ritmo tutto a incastri, che non è lo swing bambara della ragazzina Tikar, lo swing A, diciamo così, del Niger Congo A, delle lingue, è invece l'incastro bantu delle lingue Niger Congo B. L'elemento swing ce l'abbiamo invece se ascoltiamo l'orchestra di Armand Piron, che era una eccellente band di jazz per far ballare le persone, attiva fin dai primi anni, dalla fine degli anni 10, nei primi anni 20, viene registrata più tardi, ma era già attiva da anni, e sentirete una sonorità praticamente la stessa, con l'improvvisazione qui e lì, soprattutto alla fine, ma con il ritmo swing che non è quello bantu, ma è quello che viene dalle arpe mandinga, che viene dalla ragazzina che macina il miglio, che viene dalla halam. La musica è tutta scritta, tranne verso la fine improvvisa. Anche questo è basato su più temi, secondo tema, swinga. Più improvvisato qui. Si ripete uguale. Primo tema. terzo tema. Molto più libero, quasi improvvisato. Quindi, per concludere, avete visto come non è possibile trovare un punto, un momento, un istante in cui, diciamo, sorge il jazz in quel momento perché lì succede quella cosa. È il risultato, la nascita del jazz è il risultato di un processo storico complesso, di cose che ci sono prima, che ci sono dopo, che si intrecciano e sono il risultato di flussi culturali di provenienza differente che si intrecciano e producono nuovi fenomeni culturali. Questo è il meccanismo della cultura. Processi, trasformazioni dovuti a movimenti di carattere storico, culturale e in questo caso abbiamo visto anche molto importante migratorio. E la risposta del perché il jazz è nato a New Orleans e non a New York penso che sia ben chiara, perché New Orleans è sul territorio politico degli Stati Uniti, ma da un punto di vista culturale e geografico appartiene a tutt'altro complesso, che è il complesso, diciamo, chiamiamolo afro-ispanico-caraibico e quindi per certi versi anche mediterraneo. Ed è anche per questo che c'è molto vicino. Grazie.